الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to them, and it was President Reagan. The people we are fighting today, we funded. The people we are fighting today, we funded. The people we are fighting today, we funded. The people we are fighting today, we funded. The people we are fighting today, we funded. The people we are fighting today, we funded. Un momento come non mai dopo il 1989 in cui si impone, ma si impone come materia concreta di riflessione e poi di impegno la costruzione di un nuovo ordine mondiale. Quello che riteniamo però è che nella storia italiana ci sia sempre stata la volontà del dialogo e quando noi dicevamo che dovevamo parlare e riportare la Russia al tavolo nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, lo dicevamo perché non partivamo da una sanzione economica, ma dall'idea che se vogliamo tutti insieme affermare un nuovo ordine mondiale, ben venga l'accordo a Cuba. I cittadini italiani sanno che persone come lui sono schiave di lobby, schiavi di potenti che stanno violando la Costituzione e hanno paura di stare qui e parlare. Avete il calo come la legge perché fanno la legge elettorale con un condannato fuori dal Parlamento. Che dei soggetti privati siano proprietari della nostra moneta e ce la prestino richiedendola indietro con l'interesse. Ma se la moneta è dei cittadini, degli stati, allora perché ce la prestano? Ha mai sentito parlare di signoraggio bancario, signor Letta? Ne parlate mai alle riunioni del Club Bilderberg? Club di cui lei, il suo predecessore Mario Monti, Emma Bonino, guarda caso ministro degli affari esteri, e Mario Draghi, guarda caso direttore della Banca Centrale Europea, fatta parte. E voi che cosa continuiamo a fare? Continuiamo a sovvenzionare le banche con quell'altra schifezza del decreto competitività, che stiamo andando a dare tutto il potere in mano alle banche. Ma quando vi ribellate? Io lo sto dicendo a voi, senatori. I have to say, Mr. Van Rompuy, 18 months ago when we first met, I was wrong about you. I said you'd be the quiet assassin of nation-state democracy, but you're not anymore. You're rather noisy about it, aren't you? You, an unelected man, went to Italy and said, this is not the time for elections, but the time for actions. What in God's name gives you the right to say that to the Italian people?